insieme, che felicità! Salta, salta, manda un SOS, non disperarti, ma rema e va, perché chi dorme, sai, non piglia pesci, no, ma qualche volta sì, c'è la fortuna che lo aiuta, con un sorriso della mamma, pura magia, hippie hippie purrà. Simpático.